Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, incredibilmente qualche minuto di anticipo oggi rispetto ai canonici 10:30 che sono l'orario ufficiale di inizio di Città Fujiko Live Club. Ogni mercoledì un paio di ore di musica registrata dal vivo dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko. Potete trovarci anche sul web tramite l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it e per alcune province emiliane anche tramite il DAB. Città Fujiko Live Club, come sempre, si preoccupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di ogni genere, no, anzi quasi di ogni genere, ad essere onesti, e di tutte le epoche. E inizia sempre con una novità, e quest'oggi è una novità veramente molto interessante da parte di un gruppo che, come capita a molti gruppi britannici, è praticamente idolatrato in patria, mentre dalle nostre parti non è molto conosciuto e nemmeno tanto apprezzato. Hanno un nome assolutamente nulla dicente, diciamo così, se esiste questo termine. Si chiamano semplicemente James. Loro vengono da Manchester, sono stati attivi inizialmente dal 1982 al 2001, anno in cui Tim Booth, che è il cantante solista e leader praticamente, se ne andò per una carriera solista che in realtà non gli ha dato molta fortuna. È una cosa molto strana questa, capita parecchie volte. Con la band il cantante, il frontman, è assolutamente idolatrato, poi quando è in veste solista e fa le stesse cose che fa con la band, però non ottiene il successo sperato. Questo portò a una riunione dei James nel 2007 e sono tuttora attivi, tanto appunto che la novità che vi propongo oggi è appena uscita ed è nuova, non è una ristampa o cose del genere, è un doppio album che è stato registrato ad Atene, all'Acropoli di Atene. Infatti si chiama Live at Acropolis, è l'ultimo di 6 live albums che hanno fatto i James, insieme a una manciata di singoli che contenevano brani dal vivo. Chi è stato ad Atene non può non essere stato all'Acropoli, per cui sa benissimo di cosa sto parlando. In particolare l'album è stato registrato all'Odeon di Erode Attico ed è stato registrato il 10 luglio del 2023 insieme a un'orchestra che si chiama Orca 22 e a Manchester Inspirational Voice Choir. Tenete bene in mente questo perché molti dei brani dei James, dai più famosi ai meno famosi, sono stati riarrangiati con un sacco di coro e sono veramente molto interessanti. Andiamo subito ad ascoltarci il primo brano, che secondo me è quello più famoso della band, l'avrete già sentito questo sicuramente,

Brano di apertura del secondo dischetto di questa novità che vi propongo quest'oggi, Live the Acropolis. Loro sono James, il brano si chiama Sit Down, in una versione molto orchestrale, come avete sentito, molto tranquilla. Ci sono altre versioni un po' più mosse, chiamiamole così. Questi James hanno, come dicevo, avuto un grande successo soprattutto negli anni 90 e nei primi anni 2000, poi dopo un po' si sono, anche a causa dello scioglimento, la loro popolarità è scemata, ma quando sono tornati insieme, anzi quando Tim Booth, ripeto, il cantante nonché leader, nonché colui che scrive la maggior parte delle canzoni, ha riunito la band, sono risorti, anche se non alla popolarità precedente. Always a price, but it's free. Il brano, come vi dicevo, come tutto l'album, è stato registrato all'Odeon di Erode Attico ad Atene, in Grecia, un sito archeologico bellissimo, e questo mi ha dato l'idea di proporvi brani, dischi, tutto ciò che è stato registrato in siti archeologici. Sono parecchi, più di quanto uno possa credere. Comunque iniziamo rimanendo in quel di Atene, però ci spostiamo dall'Acropoli all'Icabetto, che è un'altra località di Atene, la collina più alta della città, se ricordo bene, e insieme a un grande personaggio che si chiama Peter Gabriel. Lui ha pubblicato un album nel 1986 che si chiama So, e 25 anni dopo ha pubblicato So 25th Anniversary. Se il primo era un long play, quest'ultimo invece è un box set con 3 CD. C'è naturalmente la versione di So debitamente remixata, e il secondo e il terzo dischetto contengono un concerto che Peter Gabriel ha fatto all'Icabettus, appunto ad Atene, nelle serate del 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre del 1987. Ci andiamo subito ad ascoltare Peter Gabriel, un grandissimo, e la sua Lay Your Hands on Me. Garden grill with the plastic flowers on the windowsill. No more miracles, loaves and fishes. Been so busy with the washing of the dishes. Reaction levels much too high. I can do without the stimuli. I'm living way beyond my ways and means, living in the zone of the in-betweens. Caught the flashes on the frozen ocean, static charge of cold emotion. Watched down by the distant lights, watched down by the silent hidden spies. Still the warmth flows through me, and I sense you know me well. No luck, no golden chances, no mitigating circumstances now. It's only common sense. There are no accidents round here. I am ready. Lay your hands on me. I am willing. Lay your hands on me. I believe. Lay your hands on me. Over me. Working in gardens, thornless roses, fat men play with their garden hoses. Poolside laugh has a cynical bite, sausage speared by the cocktail satellite. I walk away from light and sound, down stairways leading underground. But still the warmth flows through me, and I sense you know me well. It's only common sense. There are no accidents round here. We'll be right back. I need a miracle every day. I need a miracle every day. Talk about a miracle. I need a miracle every day. Talk about a miracle. I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle every day. I need a miracle every day. I need a miracle. Uno dei grandi sogni di Jerry Garcia, il leader dei Grateful Dead, è sempre stato quello di suonare alle piramidi in Egitto, non quelle di Las Vegas, ma proprio quelle reali, quelle vere in Egitto. E questo sogno si avverò nel settembre del 1978, esattamente dal 15 al 16, nella quale giorni nei quali la enorme carovana dei Grateful Dead, musicisti, tecnici, Deadheads e tantissimi altri, volarono in Egitto sotto le piramidi per questo concerto che è stato immortalato in un doppio CD più DVD che si chiama Rock in the Cradle Egypt 1978. E Grateful Dead non si discutono e in questa occasione erano veramente in forma smagliante. Peccato che Jerry Garcia ci abbia lasciato nel 1995 decretando la fine dei Grateful Dead, che però continuano a sfornare album live praticamente ogni settimana. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama I Need a Miracle, Grateful Dead dal vivo alle piramidi. Ma non dimentichiamoci l'Italia, piena di siti archeologici naturalmente, e oramai da diversi anni l'Arena di Verona ha aperto le proprie porte alla musica profana, non solo la classica, non solo la lirica, ma anche concerti rock e pop. E sono tante le registrazioni effettuate all'Arena di Verona, questa è una di quelle, da un'altra band mia beniamina, chiamiamola così, che appena posso vi faccio ascoltare, ma l'ascoltate tante volte perché sono veramente molto molto conosciuti anche dalle nostre parti. Si chiamano Pearl Jam, della serie infinita dei loro bootleg ufficiali, Arena di Verona, 20 giugno 2000. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Black. Fantastico! Buono! Questa è una canzone su padre e figli. Perfetto! Papa go to bed now, it's getting late. Nothing we can say is gonna change anything now. I'll be leaving in the morning from St. Mary's Gate. We wouldn't change this thing, even if we could somehow. 'Cause the darkness of this house has got the best of us. There's a darkness in this town that's got us too. But they can't touch me now, and you can't touch me now. They ain't gonna do to me what I watched them do to you. So say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day all down the line. Won't you just say goodbye, it's Independence Day. It's Independence Day this time. Now, I don't know just what it always was with us, but we chose the words and yeah, we drew the lines. There was just no way this house could hold the two of us. I guess if we were just too much of the same kind. We'll say goodbye, it's Independence Day. All boys must run away on Independence Day. Won't you just say goodbye, it's Independence Day. All men must make their way come Independence Day. Frankie's joint and the highway, she's deserted tonight, clear down to Breakers Point. There's a lot of people leaving town now, leaving their friends, their homes. At night they walk that dark and dusty highway all alone. Papa, go to bed now, it's getting late. Nothing we can say can change anything now, 'cause there's just different people coming down here now, and they see things in different ways. And soon everything we've known will just be swept away. So say goodbye, it's Independence Day. Papa, now I know the things you wanted that you could not say. Oh, won't you just say goodbye, it's Independence Day. I swore I'd never meant to take those things away. Fantastico! Anche il Circo Massimo a Roma da qualche anno ha aperto le proprie porte, che non ci sono ma va bene lo stesso, alla musica di praticamente ogni genere. E Bruce Springsteen e la E Street Band sono stati lì un paio di volte, nel 2016, che è quello, il brano che ci siamo ascoltati è registrato in quell'occasione, il 16 luglio per la precisione, e l'altro nel 2023. E devo dire però, aprire una piccola parentesi, che per quel che riguarda i concerti, il Circo Massimo è veramente uno schifo, nel senso che se c'è il sole non c'è un filo d'ombra, parte un albero dal quale però cadono delle strane creature che è meglio non avere addosso. E invece se piove, come è successo l'ultima volta, si trasforma in un pantano che è assolutamente ingestibile. Oltretutto io ho sempre avuto la fortuna, e per fortuna anche i mezzi economici, per comprare il primo pit, mentre chi sta dietro mi ha detto, in diverse persone mi hanno detto che non si vede praticamente niente. Comunque continuano a fare concerti, e d'estate soprattutto qua in Italia si fanno concerti everywhere. Il brano che ci siamo ascoltati dal fantastico Bruce Springsteen, e non dimentichiamo mai la E Street Band, si chiama Independence Day. Ma emigriamo, andiamo in Francia dai cugini transalpini, anche se ultimamente il capo transalpino è la nostra capetta, oserei dire, e hanno avuto qualche problema, ma ieri pare che si siano riappacificati. Qui ci sono diverse arene romane, anche in questo caso, che sono veramente bellissime, tipo quella di Orange, che è assolutamente fantastica, e nella quale hanno registrato diversi brani che sono stati inseriti. Innanzitutto hanno registrato quello che all'epoca era VHS, che poi è diventato un DVD, e poi dal punto di vista sonoro hanno pubblicato diversi brani in diverse occasioni, in diversi singoli. Questa è una di quelle, è un doppio singolo, sono due 7 pollici, il primo è in studio mentre il secondo contiene due brani dal vivo, il tutto registrato appunto al Teatro Antico di Orange in Francia il 9 e il 10 agosto del 1986. Il brano ce lo presenta lo stesso Robert Smith. I wanna 2, 3, 4, 5, 6. Altra bellissima arena romana in quel di Francia è quella di Nîmes, molto molto bella, e ogni estate ci sono un sacco di concerti, e nel maggio del 1992 erano in concerto a Nîmes in Francia i Dire Straits. Hanno registrato buona parte del loro album live che si chiama On The Night, il secondo album live della loro discografia. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Walk of Life, sempre molto di fretta perché ci sarebbero ancora tantissime cose e ne rimarranno fuori un bel po'. Andiamo in un'altra arena, un po' più vicina dalle nostre parti, a Fréjus per la precisione. E in questa arena, la sera del 27 agosto 1992, suonarono una serata fantastica, prima i King Crimson e poi Roxy Music, concerto che avremmo visto qualche giorno dopo anche qua in Italia, a Reggio Emilia, esattamente il 29 agosto. King Crimson ve li abbuono stasera, stamattina. E quindi ci andiamo ad ascoltare i Roxy Music, 27 agosto 1992, l'album si chiama Heart Still Beating, il brano invece è una canzone per la martoriata Europa, A Song for Europe, Roxy Music. This one was written with you especially in mind, it's called A Song for Europe. Here as I sit at this empty cafe, thinking of you, I remember all those moments lost in wonder that we'll never find again. The world is my oyster, it's only a shell full of memories. And here by the sail, a crocodile cast a long, lonely shadow. Now only but there always remains my obsession. Through silken waters my color glides, and the brilliant its sight. We'll Sempre grandi Roxy Music, siamo all'Arena del Fréjus in Francia. Fréjus, la città appunto, vista da fuori sembra un po' dismessa, ma evidentemente all'epoca facevano dei gran concerti. 27 agosto 92, il brano si chiama Song for Europe. Molto velocemente andiamo a concludere tornando in Italia, e abbiamo un dilemma, nel senso che Lou Reed ebbe dei grossi problemi per una serie di concerti qua in Italia, tornò qualche anno dopo e per diciamo riappacificarsi col pubblico italiano pubblicò un doppio long play che si chiama Live in Italy. Una parte è stata registrata all'Arena di Verona il 7 novembre del 1983, 7 settembre scusate del 1983, l'altra è stata registrata al Circo Massimo di Roma il 10 settembre dello stesso anno. Fate voi quello che volete, questa si chiama White Light, White Heat. body belongs here. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, siamo al 4 giugno 2025, siamo già in giugno, metà dell'anno in pratica, e abbiamo iniziato la seconda parte però nel solito modo, con la novità che vi propongo quest'oggi. La band si chiama James e invece l'album si chiama Live at the Acropolis, registrato in quel di Atene. Con un'orchestra, la Orca 22, e un coro, Manchester Inspiration Voices Choir, che avete sentito distintamente in questo brano, che si chiama Many Faces, come del resto sparso in tutto l'album. Ci sono veramente pezzi molto corali, molto, con arrangiamenti veramente molto molto larghi, diciamo così, se mi consentite il termine. Il tutto è stato registrato il 10 luglio del 2023, è un doppio dischetto molto molto accattivante questo dei James, capitanati da Tim Booth. Ma praticamente sono già in ritardo con Recorded Today, la rubrica che è sempre inserita all'interno di Città Fujiko Live Club, che si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Siamo in estate, a maggior ragione tantissime cose registrate in questi giorni, e il brano, il criterio di scelta però è sempre quello di un brano per ogni decade. E iniziamo subito da Elvis Costello, detto anche Declan Patrick McManus, che arriva da Londra. Il suo primo album ebbe un grandissimo successo nel 1977, si chiamava Miami's True, e questo Live at Hollywood High era un promo che fu registrato il 4 giugno del 1978 durante il primo tour americano di Elvis Costello, quello che gli portò anche un po' di problemi perché fece delle dichiarazioni un po' razziste, ma questo è un altro discorso. A noi, come sempre, quasi interessa la musica. Dopo Elvis Costello quasi ritrattato, si è ripreso, insomma adesso ha fatto la pace con gli Stati Uniti, che per un po' lo avevano osteggiato. Diceva registrato nel 78, ma è stato pubblicato solamente nel 2010 in versione ufficiale, quella che si trova nei negozi. In precedenza era solo un promo. Elvis Costello ha fatto una marea di album live, di singoli promozionali e ristampe con brani dal vivo. Qui appunto abbiamo questo ex promo, diciamo così, che è stato registrato a Hollywood High School di Los Angeles, lo ripeto, il 4 giugno 1978. Il brano che ho scelto per voi si chiama I Don't Want to Go to Chelsea. Il buon Elvis Costello non vuole andare a Chelsea, io ci andrei anche subito. Fancy tricks to get your kicks at 66. And thinks of all the lips that are licks and all the girls that is going to fix. She gave a little flirt, gave herself a little cuddle, but there's no place yet. Bottom of the skin, white down the dirt. But it's fit, she's last, she's mild. They're calling and dancing when she looks like Elsa. I don't want to go to Chelsea. Oh no, does not move me. Even though I see the move, I don't want to check your pulse. I don't want nobody else. I don't want to go to jail cell. Everybody's got new orders. Be a nice girl, kills the waters. And now the teacher is away. All the kids begin to play. White coat, shake you very gently by the throat. Watch them Gus, watch them outfit. I don't want to go to Chelsea. Oh no, does not move now. be my lord. Now shake the pool. I don't want to shake your balls. I don't want nobody else. I don't want to go to Chelsea. Questo è l'Elvis Costello che preferisco, quello accompagnato dagli Attractions e ruspante, verace, dopo è diventato un po' troppo intellettuale a mio avviso. L'album che ci hanno ascoltati era un vecchio promo che poi è stato pubblicato in maniera ufficiale, si chiama Live at Hollywood High, che è una scuola di Los Angeles, un liceo di Los Angeles per meglio dire, ed è stato registrato il 4 giugno del 1978. Il pezzo si chiama I Don't Want to Go to Chelsea. Per quel che riguarda gli anni 80, iniziamo subito dal 1980, proprio all'inizio della decade, con una band canadese, viene da Toronto, veniva ufficialmente da Toronto, nel senso che loro sono Rush, sono stati attivi dal 1968 al 2015, poi per un problema di artrite del chitarrista Lifeson, non ricordo il nome, hanno interrotto l'attività, ma ogni tanto fanno qualche piccolo tour in giro per gli Stati Uniti soprattutto. Il batterista però è morto, Neil Peart, nel 2020 e pare, notizia di questi giorni, che il nuovo batterista dei Rush dovrebbe essere Nick Collins, il figlio di Phil Collins dei Genesis. Loro è una musica molto particolare, molto articolata, arzigogolata, tanto che negli show dal vivo usano spesso e volentieri dei sampler digitali per aumentare il suono, per fare certe cose che altrimenti in tre non riuscirebbero a fare. La cosa a me onestamente non piace tantissimo. Permanent Waves è un long play che è uscito nel gennaio del 1980, ma è stato ripubblicato, era un long play come dicevo prima, è stato ripubblicato in forma di due CD nel maggio del 2020 in occasione del 40° anniversario della pubblicazione. Il secondo dischetto è registrato dal vivo in varie location, Questa in particolare del 4 giugno 1980 è stata registrata all'Hammersmith Odeon di Londra e lo stesso Lifeson ci dice di cosa si tratta. This is called Baitor and the Snow Dog. Yes. È uno dei brani più famosi nella produzione dei Rush, si chiama By Thor and the Snow Dog, in questo caso registrato all'Hammersmith Odeon di Londra il 4 giugno del 1980. I Rush hanno praticamente ristampato tutta la loro discografia con annessi album live, ve ne farò ascoltare diversi, anche se, come vi dicevo in precedenza, l'uso dei sampler digitali nel corso dei concerti non mi garba molto, ma comunque il tutto è stato registrato nel 1980. Andiamo alla decade seguente, 1994, in concerto uno dei tanti gruppi che hanno fatto parte della musica britannica nel corso degli anni, lo fanno ancora parte, anche se sono stati attivi prima dal 1988 al 1996, poi si sono sciolti e sono ritornati nel 2014 fino ai giorni nostri. Loro si chiamano Ride, vengono da Oxford ed è una tipica band britannica, se mai ne esiste una tipica. Comunque hanno fatto parecchie cose dal vivo, long playing, CD e parecchi singoli anche. Voglio aprire una piccola parentesi per i più giovani che sono all'ascolto. Una volta, quando non esisteva, una volta tanti anni fa, no, non tanti, qualche anno fa, quando non esisteva la musica liquida, cosiddetta, i singoli venivano veramente pubblicati fisicamente, o in vinile o in CD, e solitamente non era un solo singolo, non era una sola canzone, ma a seguire c'erano canzoni remix, canzoni non inedite, oppure canzoni dal vivo, come nel caso che spesso vi faccio ascoltare. Questo è uno di quelli. Il singolo si chiama I Don't Know Where It Comes From. Ho dimenticato di dire che adesso con la musica liquida non vengono proprio pubblicati, se non proprio in maniera molto molto ridotta. Comunque, questo si chiama I Don't Know Where It Comes From, loro sono Ride, e questa canzone è in studio. Le tre canzoni che seguono invece sono dal vivo, registrate alla Royal Albert Hall di Londra, naturalmente il 4 giugno del 1994. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama From Time to Time, loro si chiamano invece Ride. Siamo rimasti in quel di Londra con una registrazione effettuata alla Storia, locale che non esiste più, per lasciare posto a un'immensa stazione della metropolitana proprio in centro a Tottenham Court Road. E il 4 giugno di quell'anno del 2005, era una domenica, anzi un sabato scusate, erano in concerto Mostly Autumn, che è la band che ci siamo ascoltati, che arriva da York ed è attiva dal 1995. Brian Jones è il cantante maschile, chitarrista e tastierista ed è l'unico membro originale della band. Come avete sentito anche in questo brano, anche se era più femminile la voce, ma la caratteristica della band è di avere una voce maschile e femminile, naturalmente, mentre Brian Josh è rimasto sempre lui, la voce femminile, la cantante è cambiata diverse volte. E l'album che ci siamo ascoltati si chiama Storms Over London Town ed è stata registrata appunto il 4 giugno 2005. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Black Rain. Ormai sono tantissime le registrazioni effettuate in quel magnifico anfiteatro naturale che si chiama Red Rocks. Ad aumentare questo numero di registrazioni c'è anche il John Butler Trio. John Butler è un personaggio assolutamente unico, arriva da Fremantle in Australia ed è dal 1998 al 2019 è stato leader appunto del trio, mentre adesso è in versione solista, ma sempre accompagnato da una band, ma si chiama John Butler, che vedremo in concerto all'Estragon il 19 novembre prossimo. Ha fatto diversi album live, questo appunto è un doppio CD più DVD registrato a Morrison il 4 giugno del 2010. Il pezzo che ho scelto per voi, evidentemente a John Butler piacciono molto i gelati, perché questo si chiama Peaches and Cream. Front of me, look up above me, and I thank that great old God in the sky. Thank you for telling me my girl, FMD. Took my boy and girl to show me right. For so long, yeah, I sing that sad old song, and it feels like my time is up. For they came and they landed in my arms, and they feel my half-empty cup. Yes, they feel my half-empty cup. There you are, right in front of me, a brand new day. Sunrise over sea, no longer up FMT, 'cause there you are, you and your mom in front of me. Your peaches and cool to me, yeah. Your peaches and cool to me. Peaches and cream to me. Parada bom bom bom rom bom mereu bom bom bom skirido e bom bom bom. John Butler Trio, grande personaggio, come vi dicevo. John Butler ora in solitaria, non più col trio, che fa largo uso, non in questo brano, ma solitamente in molti brani fa anche uso del didgeridoo, credo, spero si pronunci così, che è uno strumento a fiato aborigeno che fa un suono molto particolare. Comunque, questo invece era quasi acustico come brano, anzi sicuramente acustico, si chiama Peaches and Cream, ed è tratto da questo doppio CD più DVD che si chiama Live at Red Rocks, registrato il 4 giugno del 2010 in quel splendido anfiteatro di Morrison in Colorado. Prima di passare all'ultimo brano, quello che concluderà Ricordi Today di oggi e anche Città Fujiko Live Club del 4 giugno 2025, vi ricordo appunto che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica registrata dal vivo, ufficiale, rigorosamente ufficiale, a parte casi rarissimi che ogni volta preciso, e che si occupa appunto di farvi ascoltare quasi tutti i generi, ma sicuramente tutte le epoche. Infatti anche in questo Ricordi Today di oggi siamo passati attraverso i 70, gli 80, i 90, i 2000, i 2010, e adesso arriviamo al 2022 insieme a un personaggio che è attualmente sulla cresta dell'onda, sulla bocca di tutti. La reunion degli Oasis è uno dei, volenti o nolenti, è uno degli avvenimenti dell'anno, tutti lo stanno aspettando con grande ansia, quasi tutti lo stanno aspettando con grande ansia. Durante lo scioglimento, naturalmente, i due fratelli, oltre a dirsene di tutti i colori, hanno pubblicato diverse cose, fra cui Liam, il cantante, 3 album dal vivo. Bellissima la cosa che, parlando delle reunion della band, la band verrà pagata solamente alla fine del concerto, per evitare che ci siano problemi di litigi sul palco e di abbandono del palco da parte di uno dei due. Comunque, questo è il terzo album dal vivo di Liam Gallagher, si chiama Nebworth 2022, è stato registrato nell'omonima località britannica il 4 giugno del 2022. Il pezzo che ho scelto per voi e che conclude Città Fujiko Live Club di oggi si chiama Shockwave. Ciao a tutti da Nevio. Abbiamo un piccolo problema di... eccolo qua. This one's called Shockwave. You saw me ride up the river. Yeah, it's on me back. You could have looked for the sunshine, girl, but you had to paint the whole thing black. And now I'm back in the city. The lights are up on me. They try to keep me locked away, but hallelujah, I feel free. All your darkness has come back to you in time. Embrace yourself, well, it's about to blow your mind. I'm coming around like a shockwave. I'm coming around like a shockwave. Your back's